America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Wall Street, apriamo con la chiusura di Wall Street perché la preoccupazione sul fronte fiscal cliff, sul fronte debito, disavanzo americano resta elevata. La borsa di nuovo chiuso al ribasso, meno 121 punti ieri, quasi l'1%, siamo a quota 12.811,32, quindi in un ribasso abbastanza forte rispetto ai massimi che avevamo registrato nel post crash del 2007-2009. Soprattutto è stata sfondata al ribasso la barriera psicologica di quota 13.000, lo stesso è successo per il Nasdaq, per l'S&P 500, prudenza dunque a Wall Street, ma soprattutto un ammonimento chiaro ai politici a Washington: datevi da fare, cercate un compromesso, perché il fiscal cliff, cioè quei tagli automatici di spesa e quegli aumenti automatici di tasse, non sono accettabili. Si tratterebbe di un impatto dal punto di vista economico di quasi 700 miliardi di dollari, stiamo parlando del 4% del PIL americano. Scadrebbero gli sgravi fiscali voluti da Bush, gli americani dovrebbero pagare più tasse, una gran quantità di spese già programmate, per esempio al Pentagono, sarebbero tagliate, non ci sarebbero più commesse su cui le aziende hanno già impegnato personale e capitale. Dunque i presupposti per un disastro economico ci sono, per questo la borsa è prudente, non si fida delle buone parole che finora ha ascoltato da Washington. Now we will disagree, sometimes fiercely, about how to get there. By itself, the recognition that we have common hopes and dreams won't end all the gridlock or solve all our problems or substitute for the painstaking work of building consensus. Per primo ha parlato il presidente, lo avete sentito quando ha fatto quello straordinario discorso della vittoria da Chicago, ne abbiamo parlato ieri. C'è una gran differenza tra la facciata e la sostanza. Wall Street oggi si concentra sulla sostanza. Il presidente aveva detto: la mia priorità principale sarà proprio quella di risolvere il problema del fiscal cliff. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Molto dipende naturalmente dai repubblicani. We're willing to accept new revenue under the right condition. John Boehner, leader della Camera, il presidente della Camera, repubblicano, ha detto: ma noi forse potremmo considerare degli aumenti fiscali o degli aumenti comunque delle entrate, ma non degli aumenti delle aliquote per i redditi più ricchi. Mette i puntini sugli i, ma di fatto il leader della Camera, repubblicano, apre il tavolo del negoziato. Sarà un negoziato lungo, occorre chiarirlo, ci sono molte cose in ballo. Boehner, se dovesse cedere troppo sul fronte del compromesso con Barack Obama, rischia di essere messo nell'angolo dalla destra del suo partito alla Camera, rischia dunque di perdere le elezioni per la conferma alla guida della Camera, presidente della Camera, entro la fine di novembre. Lo stesso succede per Nancy Pelosi, anche lei ha dei concorrenti, in questo caso più moderati, che potrebbero prendere il suo posto. Dunque per un mese credo che ci sarà soprattutto molto parlare, ma poca azione. Forse si lavorerà dietro le quinte per mettere a punto una riformulazione del Grand Bargain, di quell'accordo che Barack Obama e John Boehner proprio furono molto vicini a sottoscrivere nell'estate del 2011. L'idea sostanzialmente è quella di tagliare le spese sociali, tagliare e ridurre soprattutto gli incrementi di spesa per il Medicare, l'assistenza sanitaria ai più poveri, tagliare altre spese sociali e aumentare gli introiti. Il presidente Barack Obama ha fatto capire di essere pronto anche a rinegoziare il codice fiscale, cosa che i repubblicani vorrebbero. Entriamo a questo punto in dettagli forse anche troppo tecnici, ma la volontà di andare avanti c'è. L'ipotesi più ottimistica è che il presidente e il Parlamento raggiungano un accordo prima di Natale. Sarebbe il grande regalo per l'America e devo dire per il mondo, perché tutti noi soffriremmo da una crisi fiscale americana. L'ipotesi più realista invece è per un accordo grosso modo alla fine dell'anno, a gennaio, che sarà poi formalizzato nei primi mesi del 2013 con due progetti di legge alternativi, uno che regolerà l'aspetto fiscale, l'altro l'aspetto dei tagli alle spese. Ho con me qua in studio Claudio Gatti, abbiamo passato con lui la notte elettorale a seguire le elezioni di Barack Obama. Uno dei temi che abbiamo discusso è stato proprio quello del debito. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Claudio, secondo te la borsa ha ragione di preoccuparsi o no? Beh, non c'è ombra di dubbio che il problema sia enorme e difficile da risolvere. Soltanto i numeri ne danno un'idea. Il debito federale in questo momento ha superato i 16 mila miliardi, ma gli oneri di spesa, cioè gli impegni già assunti, sia sanitari che pensionistici che militari, superano i 122 mila 100 miliardi. Per avere un'idea basti sapere che il debito aumenta di 120 mila dollari ogni 10 secondi e che ogni singolo contribuente americano in questo momento ha un debito di 141.650 dollari. Incluso te, Claudio. Incluso me e te. Ma che probabilità ci sono che si riesca a fare qualche cosa? Qua abbiamo un quadro politico interessante, perché i repubblicani, che sembrava dovessero così guadagnare posizioni, conquistare il Senato, avevano degli obiettivi molto ambiziosi, in realtà sono stati poi ridimensionati anche in Parlamento in qualche modo. Dunque, ci sarà un accordo secondo te? In che tempi? Io penso che questa sconfitta dei repubblicani possa spingere il partito a prendere posizioni più ragionevoli e più di compromesso. In questo momento risolvere il problema entro la scadenza della fine dell'anno sarà difficile, si potrebbe trovare una soluzione temporanea, ma penso che sia più probabile in questo momento che si trovi un accordo con un partito repubblicano che è stato punito anche per aver preso delle posizioni troppo forti, aver scelto dei candidati troppo vicini al Tea Party. Potrebbe decidere invece che per il bene e l'economia del paese il compromesso sia necessario. Ecco, Claudio, si è aperto ieri il congresso cinese, Xi Jinping sarà nominato segretario del partito, a marzo diventerà presidente, la Cina è il più grande creditore nei confronti dell'America. Secondo te Barack Obama cosa farà? Perché sappiamo che Romney voleva bollare la Cina come manipolatore di valuta. Quale sarà la linea di Obama e ti preoccupa questa situazione di debito esterno, impatto degli Stati Uniti sul resto del mondo? Il debito esterno per gli esperti non è più grave del debito in sé, cioè la nazionalità del creditore è poco importante se non da un punto di vista politico. Detto questo, l'economia americana e quella cinese sono così legate l'una all'altra e i vantaggi di avere prodotti a basso costo per gli Stati Uniti in questo momento in cui è possibile anche pensare a un ritorno, un aumento eventuale dei tassi di interessi per evitare un ritorno anche dell'inflazione, può servire che si mantengano dei rapporti più amichevoli. Quindi dubitano la maggior parte degli esperti che si arrivi a uno scontro sul fronte valutario. Comunque sì, è chiaro che se gli Stati Uniti non trovano un accordo sul debito, l'economia mondiale risentirà profondamente e una ripresa in Europa sarebbe molto più difficile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Lady Gaga ha donato $1 milione a un fondo istituito dalla Croce Rossa per le vittime dell'uragano Sandy. Se non fosse per New York, ha detto, non sarei l'artista che sono oggi. Ve lo ricordo, Lady Gaga è nata a New York. A lei dedichiamo la canzone del giorno, Marry the Night. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the I'm a soldier to my own emptiness. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento con America 24 dal lunedì al venerdì. Goodbye and get going!